ne parliamo di questa guerra che sarà lunga un'eternità. Per conquistare un palmo di terra, quanti fratelli son morti di già. Fuoco mitragliatrici, si sente il cannone che spara. Per conquistare la trincea Savoia si va. Trincia di raggi, maledizioni, quanti fratelli son morti lassù. Finirà dunque sta flagellazione, di questa guerra non se ne pari più. O Monte San Michele, bagnato di sangue italiano, tentato più volte man vano Gorizia piglia. Da Montenegro a Monte Capuccio, fino all'altura di Doberdo, un reggimento più volte distrutto, al fine indietro nessuno tornò. Fuoco mitragliatrici, si sente il cannone che spara. Per conquistare la trincea Savoia si va. Fuoco mitragliatrici, si sente il cannone che spara. Per conquistare la trincea Savoia si va.